Di Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati per una nuova puntata di Zibaldone. Di cosa parleremo quest'oggi qui su Radio Contrabanda? Vediamo se lo capite da queste note, da questa musica e da questa voce inconfondibile. E lontano, lontano nel tempo, qualche cosa negli occhi di un altro ti farà ripensare ai miei occhi, i miei occhi che t'amavano tanto. E lontano, lontano nel mondo, in un sorriso sulle labbra di un altro, troverai quella mia timidezza per cui tu mi prendevi un po' in giro. E lontano, lontano nel tempo. E vabbè, è Luigi Tenco, l'avete riconosciuto sicuramente. Questa è Lontano, Lontano, una canzone mitica che ha ormai quasi 60 anni, una canzone che ogni anno apre la rassegna della canzone d'autore, conosciuta anche come Premio Tenco, che si tiene in genere a metà ottobre tutti gli anni, appunto a Sanremo, al Teatro Ariston, ma in realtà poi in altri tanti luoghi della città della Riviera Ligure. Quest'anno è il 50esimo, sia 50 rassegne, 50 anni meglio dire, dalla prima rassegna del Premio Tenco. La prima fu nel 1974, quindi questo 2024 siamo ai 50 anni da quando si aprì per la prima volta lo scenario di quel palcoscenico, appunto all'Ariston di Sanremo, per valorizzare, dare voce alla canzone d'autore, a una nuova generazione all'epoca di cantautori, come purtroppo quel Luigi Tenco, che invece era scomparso qualche anno prima, nel gennaio del 1967. Una rassegna che riempirà la Città dei Fiori dal 16 al 19 ottobre di questo 2024 e alla quale parteciperanno tanti ospiti, tanti cantautori e alcuni ovviamente premiati, come ad esempio la persona che ascoltiamo proprio ora in un brano forse poco conosciuto di tanti anni fa, proprio il 1970, questa registrazione. Vediamo se lo riconoscete. Fu nell'anno 41 che qualcuno fu papà, venne poi il 44 e quell'uomo se ne andrà. 945 madre e figlio senza lui, come vissero da allora in poi nessuno seppe mai. Gli anni passano veloci, per quel bimbo invece no. Così chiuse gli occhi e disse: tra vent'anni li aprirò. Aprì gli occhi che era un uomo, vide un clown passati lì, che gli disse: vuoi venir con noi? E lui rispose sì. Gioie e dolori e ragazze in quantità. Giro il mondo fino in fondo, non mi fermerò mai più, fino a quando i sogni rosa si dipinsero di blu. Poi incontrò una ragazza, quella che voleva lui, e fra un bacio e una carezza disse: mia moglie ti sarai. Costruirono una casa, non ti lascerò mai più, e la gente un giorno vide sulla porta un nastro blu. Fu nell'anno 61 e qualcuno fu papà. Venne poi il 64, quell'uomo se ne andrà. 965, madre e figlio senza lui. Quando un giorno arriva un circo e il bambino cosa fa? Beh, forse la voce sì, l'avete riconosciuta, è quella ovviamente di Edoardo Bennato, il brano forse no, insomma proprio i fan di Edoardo Bennato forse l'hanno riconosciuto. 1941, una delle sue primissime canzoni, siamo proprio a cavallo tra la fine degli anni 60 e l'anno 1970. 1941, tra l'altro, dettaglio, una canzone di Harry Nilsson nella sua versione italiana, adattata da Alessandro Colombini e Mogol, niente po' di meno. Ecco, Bennato si fece conoscere con questa canzone nel 1941, poi ovviamente dall'inizio degli anni 70 in poi ha avuto una carriera che insomma moltissimi di voi sicuramente conosceranno, tra il folk rock d'autore, poi accompagnato, no, dall'armonica, a volte anche il kazoo, il tamburello, fino a poi anche album diciamo che si muovono più tra un pop rock che è stato anche mainstream, no, durante molto tempo. Pensiamo alle Notti Magiche con Gianna Nannini per i mondiali d'Italia 90. Ecco, Bennato che insomma ha compiuto da qualche anno i 70, quindi gli ha superati già i 70 anni e è sui palcoscenici da oltre mezzo secolo, è uno degli artisti presenti quest'anno a Sanremo per questo Tenco 50, 16-19 ottobre 2024, a cui dedichiamo la puntata di Zibaldone di quest'oggi. Edoardo Bennato è proprio uno dei premi Tenco, ci tengo a precisare, l'abbiamo fatto già in passato qui a Zibaldone quando abbiamo parlato della rassegna del Club Tenco di Sanremo, che i premi Tenco sono premi alla carriera, quindi vengono insigniti con i premi Tenco artisti con una lunga carriera, appunto per riconoscere, no, quello che hanno fatto per la canzone e per la musica. In questa edizione uno dei premi Tenco è appunto Edoardo Bennato, che si esibirà all'Ariston la sera del venerdì 18 ottobre. Un altro artista che riceve il premio alla carriera, il premio Tenco, è anche lui, diciamo, Bennato dell'inizio degli anni 50, classe per fare, insomma, quando è nato, mentre di qualche anno prima, del 1949, è Mimmo Locasciulli, anche lui è premio Tenco, anche lui sarà sul palco dell'Ariston venerdì sera 18 ottobre e ci andiamo ad ascoltare anche nel suo caso un album dei suoi primi anni, in questo caso siamo ai primi anni 80, in realtà i primi dischi di Locasciulli sono della seconda metà degli anni 70, questo brano però ebbe molto successo intorno a 30 anni, era il 1983. Fuori c'è un tempo da cani, la pioggia chicchi grandi come noci, meglio stare a casa la sera a guardare la televisione, e un bicchiere ti rimette la pace, io non ho voglia più di fare la guerra, con una città che sa menare le mani e con un pugno ti stende per terra. E siamo noi che abbiamo intorno a 30 anni, che abbiamo girato l'Europa e l'America, adesso siamo stanchi. E siamo noi, quando riparte il treno, ci riprendiamo la giacca, ci mettiamo il cappello e ci troviamo lì. C'è una ragione precisa, se c'è una pietra sopra il cuore che pesa, non è un fatto di moglie, non è un fatto di figli, non è quello che puoi pensare. Sto dalla parte dei ladri che stanno dentro perché l'hanno traditi, che fanno finta che si sono pentiti, però ci basta uno sguardo e già ci siamo capiti. E siamo noi abbiamo intorno a 30 anni, che abbiamo rubato l'Europa e l'America con le nostre mani. E siamo noi che quando riparte il treno ci riprendiamo la giacca, ci mettiamo il cappello, ci vediamo lì. Che muore su questa storia senza più parole, che raccontiamo con presentimento in un tramonto di fuoco e senza un filo di vento. Verranno giorni di pioggia, verranno giorni di malinconia, tra gli aquilotti che hanno messo le piume, queste navi in bottiglia scivolate via. E siamo noi che abbiamo intorno a 30 anni, che abbiamo bruciato l'Europa e la, adesso siamo stanchi. E siamo noi che quando riparte il treno ci riprendiamo la giacca, ci mettiamo il cappello e ci troviamo lì. E quando riparte il treno ci riprendiamo la giacca, ci mettiamo il cappello e ci vediamo lì. E quando riparte il treno ci riprendiamo la giacca, ci mettiamo il cappello, ci troviamo lì. Lui è Mimmo Locasciulli, un altro dei premi Tenco di questo Tenco 50, 16-19 ottobre a Sanremo, le serate ovviamente a partire dalle 21 al Teatro Ariston. Tutte le informazioni comunque le trovate un po' dappertutto ormai, però insomma andate sulla pagina web del Club Tenco di Sanremo e lì davvero trovate tutte le informazioni nel caso in cui vogliate fare un salto nella Città dei Fiori e godervi questa rassegna della canzone d'autore. Ecco, Napoli, la Napoli degli anni 70-80, tra il folk rock di Bennato e Mimmo Locasciulli, tra Abruzzo e Roma, la canzone d'autore della fine del Novecento. E il terzo premio Tenco invece è un artista di un'altra generazione che ha cominciato nei primi anni 90, esattamente 30 anni fa, nel 1994, è un artista romagnolo, un artista molto amato, parliamo di Samuele Bersani, anche lui premio Tenco 2024. Andiamo a ascoltarci la canzone che l'ha fatto conoscere, che l'ha lanciato, era il 1994 con questa Freak. Ciao ciao ai tuoi orecchini con il simbolo della pace, te li ho comprati io d'estate al mercatino dei Freak. Non mi hai nemmeno detto grazie, ma ti sei fermata lì a ballare. Dimmi dell'India, hai più pensato a quel progetto di esportare la piadina romagnola? Facciamo dopo il diploma, magari si è meglio, ma intanto mi fermo un po' qui. Tiriamo fuori tutti i tuoi CD, ok so già che metterai sui Doors. Oh no, metti il bolero, slega il movimento, il pensiero, il sesso. Se il filo non ti va bene per fare delle collanine, ma mi è venuta un'idea, potrei provare adesso io a infilarmi dentro a tutte le berline. Gli anni 70 avrei lasciato tutto per seguire un corso di campana tibetana con il mio cane l'amaca, dormendo sospeso a due stelle nel cielo. Ma qui trovami un posto per rifarlo qui, in un recinto chiuso non ci sto. No, né con la destra, ma nemmeno col PC. Che bestia, che bestia. Oh, ciao ciao belle tettine. Scusami se parlo male, lo sai che io non sono fine, ma parlo come mi viene, libero da ogni chiave, via i lucchetti e le catene. Sì, come in India, hai più pensato a quel progetto di esportare la piadina romagnola. Stasera dormi da sola, magari si è meglio, ma intanto mi fermo un po' qui. Tiriamo fuori tutti i tuoi CD, ok, so già che metterai sui Doors. Oh no, metti il bolero, slega il movimento, il pensiero, più sesso. Dormendo sospesi a due stelle nel cielo, ma qui troviamo un posto per rifarlo qui, in un recinto chiuso non ci sto. Oh no, metti il bolero, slega il movimento, col sesso sto attento. Dopo questa freak, in questi 30 anni ne ha fatte tante di cose Samuele Bersani, ed è anche lui esponente di una nuova generazione di cantautori, va il premio Tenco. Ricordo che l'anno scorso, appunto della stessa più o meno generazione, era stata anche insignita con il premio Tenco alla carriera Carmen Consoli. E oltre ai premi Tenco per artisti italiani, ci sono sempre, o almeno c'è sempre in ogni rassegna, un premio Tenco diciamo per un artista internazionale. Ne sono passati tanti, da Leonard Cohen a Tom Waits, da Silvio Rodriguez a Pablo Milanés, da Atahualpa Yupanqui a Bulato Cuggiava, per nominarne solo alcuni. Tanti poi gli spagnoli, catalani, da Luis Llach a Joan Manuel Serrata, Maria del Mar Bonet. Insomma, non faccio adesso l'elenco, ho già nominati alcuni che sono un po' dei nomi tutelari della canzone d'autore internazionale. Quest'anno il premio verrà dato, il premio Tenco alla carriera ad un artista internazionale, a Teresa Parodi, una forse la più importante artista, cantautrice folclorica argentina, che tra l'altro è stata anche nel 2014 la prima donna ad occupare l'incarico di ministra della giustizia durante l'ultimo governo di Cristina Fernandez Kirchner. Andiamo ad ascoltarci una canzone di qualche anno fa di Teresa Parodi, Apúrate José. Tra l'altro Teresa Parodi suonerà sempre nella serata di venerdì 18 e in un set in cui apparirà anche Tosca, con cui ha collaborato, e poi Tosca ovviamente avrà anche un momento tutto suo. Apúrate José, lei è Teresa Parodi, Premio Tenco 2024. Así hablaba la Jacinta en mi pueblo, yo la oí. Cuando las aguas llegaron y se tuvieron que ir, mezclando buen castellano con algo de guaraní, esto fue lo que ella dijo, yo lo voy a repetir. Siente otra vez y no sé por qué. Esta vuelta a las aguas me dan más miedo. Todo el bicherío la está anunciando como nunca fue. Allí José, ya de los críos y el atadito en el desample. Y se fue con frete para el batel. Se llevó unas canchas y algunos trastos en el carro. Ya pasó la eulogia y campaba ciel, orillando el pueblo por el tapé. Apúrate, te digo que llega el río y no aturde asustándome. Nunca fue tan triste la tarde ser. La virgencita que me perdone, pero hace mucho que Dios se olvida de los isleños y chupé. Ay, cómo sufre la gente pobre. Calamidad de manteles suelen pasar al pueblo. Ayé, José, ¿te acordás la otra vez? Los que no pudieron alcanzar el camino, nadie más los vio. La Evarista Luján, la Velo de Ríos, se quedó solita esperando a López en el rancho allá y no se supo más. Cada Viernes Santo suelo rezarle el rosario acá. Apura, te digo, fíjate bien, el Jacinto Gómez pasó también. Muévelo del chino para buscarle a la guaina de él. Ya junté el atado y los curumí, y a mi virgencita, la de Itatí, le pedí con rezos que no ayude para salir. Hay que ir costeando el camino así. Apura, te digo, añame. E Teresa Parodi, premio Tenco 2024, artista argentina famosissima, anche lei ormai ha superato i 70 anni e quindi insomma dopo aver avuto Atahualpa Yupanqui al Tenco parecchi anni fa, insomma torna un grande nome della musica argentina, in questo caso appunto Teresa Parodi. Ci sarà anche Tosca, vi dicevo, a duettare con lei, e dopo insomma avrà un set tutto suo anche Tosca. Siamo sempre a venerdì 18, Samuele Bersani invece suona il 19, tra l'altro il 19 ci sarà anche Caterina Caselli, in questo caso però premio Tenco per l'operatore culturale, per tutto quello che ha fatto negli ultimi decenni, dopo aver insomma essere stata anche una cantante, un interprete importantissima negli anni 60 soprattutto, tutto quello che ha fatto a livello discografico come operatrice culturale. Il sabato 19 ci saranno anche, in questo caso non premi Tenco ma ospiti della rassegna, Filippo Graziani, Simone Cristicchi e Amara, Francesco Tricarico che suonerà in realtà un brano tutte le sere, e poi un altro premio Tenco internazionale, in realtà un premio Tenco del 2022, di due anni fa, il russo Yuri Shevchuk, leader della storica band di rock russa DDT, che due anni fa non è potuto essere a Sanremo per ovvie ragioni, per ovviamente la rassegna si tenne ad ottobre, ormai erano più di sei mesi che era scoppiata la guerra, c'era stata l'invasione russa in Ucraina, e Shevchuk, che ha sempre difeso posizioni pacifiste in Russia, insomma non gli avevano concesso di uscire dal proprio paese, quindi gli fu consegnato il premio a distanza. Ecco, quest'anno incrociamo le dita, speriamo che sia davvero così, dovrebbe essere a Sanremo e quindi ci sarà anche lui il sabato 19 sul palco dell'Ariston. Il venerdì 18, tra l'altro, verrà consegnato anche il premio a un artista che forse qualcuno di voi conoscerà, un rapper iraniano, Tumaj Salei, che non sarà a Sanremo perché nelle carceri di Teheran, dove qualche mese fa addirittura era stato condannato a morte da uno dei tribunali rivoluzionari della Repubblica Islamica dell'Iran, finalmente a giugno è giunta la notizia che la condanna era stata annullata, rimane comunque in carcere in attesa di processo, dove ormai insomma in cui è rinchiuso ormai un paio d'anni, ecco, per aver appoggiato con le sue canzoni il movimento Donna Vita Libertà, che era, aveva occupato le strade interane delle principali città del paese nel settembre-ottobre del 2022, dopo il barbaro omicidio di una giovane donna iraniana da parte della polizia, dei Pasdaran del regime, per non aver portato il velo correttamente. Ecco, Tomas Salehi sarà insignito a distanza con il premio Yorum 2024, un premio che è stato istituito dal Primo Tenco nel 2020 per dare visibilità agli artisti che in diversi paesi del mondo lottano per i diritti umani, per la libertà e che spesso mettono a rischio la propria vita. Nel 2020 era stato premiato il rocker egiziano Rami Esama, voce della rivoluzione di Piazza Tahrir del 2011, che vive in esilio dall'arrivo al potere di Al-Sisi. Nel 2022 il rapper ungherese Aaron Molnar, che lotta contro l'autocrazia elettorale e la mancanza di libertà nel paese magiaro da quando è tornato al potere Viktor Orban nel 2010. E nel 2023 è stato insignito anche del premio Yorum Ahem Ahmad, un pianista, compositore, cantautore siriano-palestinese che vive in Germania dal 2016, dopo aver attraversato il Mediterraneo in quei drammatici viaggi che sono costati la vita a tantissime persone. Ecco, quest'anno Tomas Salehi è il premio Yorum, un premio che ha un'importanza simbolica notevole, una collaborazione del premio Tenco con Amnesty International Italia, e noi ci andiamo a sentire adesso un brano di Tomas Salehi. Lo trovate anche su YouTube con i sottotitoli in inglese, perché i testi sono di impegno civile, di engagement politico e che hanno un valore ancora maggiore tenendo conto che l'Iran non è una democrazia, dunque si rischia molto, come è successo appunto a Tomas, financo una condanna a morte per dire quello che Tomas ha detto in alcune sue canzoni. Sul palco però ci sarà Kento, rapper calabrese che è sempre stato, diciamo, segnato dall'impegno civile e che si è speso in questi ultimi mesi per la causa di Tomas Salehi e per mobilitare la comunità internazionale affinché non solo venga annullata la sua condanna a morte, come è stato appunto lo scorso mese di giugno, ma venga anche liberato. Lui è Tomas Salehi, premio Yorum 2024. سیاست چی هست بدون رأی سفید نداریم بی طرف نداره این جنگ اگه دست رو چشمات گذاشتی دستات خونیان خائنی اگه تریبون داری و حرفات بومیدن دوری از وطن و دوربینای ما کم سو نیستن یادت باشه کثافتای پشت ابر لو میرن اگه سرپوش گذاشتی رو قتل تو هم قاتلی واسه پوشوندن جنایت باید رو خون راه بری بدون مال کشیدن تو این سیستم کامل نیست ایران انقدر زندان داره که همتون جا بشین ژورنالیست باز داری مخبر دوزاری هنر مند درباری سوراخ موش بخر مامور مزور از بالا دستور جلاد مجبور سوراخ موش بخر سوپا پت مینان منصوب بی اختیار اصلاح طلب حزب با سوراخ موش بخر صادراتی نایی یا کی زیرو رو که شارتایی بده هرچی دلار داری سوراخ موش بخر چه هنرمندی که خبر از نون بری نداری شاشیدم به اسکار تگ مردمی نباشی پاره میکنم کلافه تو که دیگه چرن نبافی چه شهاب دولتی باشی چه اسقر فرهادی چه بازیکن حکومتی و چفی الیسی چه بازیگر صادراتی و اله ایکسی شما خود فروش پولی نرزه مقام فیکسین حیف زالو جیر خورا شما از خلایق نیستین لاشی کارون باب مدنی که پر نمیشه خوزستان جتون نمیخواد صاحب کل میزه آزادی گرونه باشه آزاده کشته میده یادتون باشه خون فقط با خون شسته میشه تیر بزن از پشت سر بکش تشنه ها رو به قتل حق خواه نامسلح افتخار کن بیرون مرز به جنایت بزن رنگ و لعاب رو بگیر از من مژده فردا و تقاص رو ژورنالیست باز داری مخبر دوز داری هنرمند درباری سوراخ موش بخر مامور مزور از بالا دستور جلاد مجبور سوراخ موش بخر سوپا پت مینان منصوب بی اختیار اصلاح طلب حزب با سوراخ موش بخر صادراتی نایی یا کی زیرو رو که شارتایی بده هرچی دلار داری سوراخ موش بخر منتظر ناجی نباش خبری تو راه نیست نجات دهنده خودتی خودت قهرمانی من و تو اگه ما بشیم بیکرانیم ما منجی زمانیم امام زمانیم E lui è Tomáš Salej, Šurak Muš è il titolo della canzone che ci siamo appena sentiti, una delle canzoni che ha potuto fare prima del punto di essere incarcerato, torturato. E ricordo anche che, insomma, non solo che è inconcepibile che nel XXI secolo, comunque un secolo quello che stiamo vivendo, degli anni segnati da guerre, da cose che pensavamo rimanessero, no, nel baule dei ricordi di un passato che eravamo riusciti come società a superare, ma non solo che degli artisti vengano incarcerati, vengano anche uccisi per delle canzoni, o rischiano la morte per delle canzoni in cui difendono la libertà e criticano i governi, la politica, il potere nei loro rispettivi paesi, ma ricordo anche che il premio Yorum è dedicato al gruppo Yorum, una band turca, tre dei cui membri sono morti dopo lunghissimi scioperi della fame di oltre 200 giorni nel 2020, dei giovani musicisti di 30-40 anni, incarcerati prima dal tiranno Erdogan in Turchia per le loro canzoni, censurati ovviamente, spesso minacciati e poi appunto fatti morire nelle carceri quando loro hanno deciso di cominciare uno sciopero della fame e della sete. Beh, insomma, questo è anche importante sottolinearlo, è importante anche come il Tenco non solo si dedichi alla canzone di qualità in Italia e all'estero, ma di anche voci a questi artisti che sono, insomma, offrono un segnale, una forza, danno una forza che forse ci siamo dimenticati nel nostro occidente. Andiamo avanti, perché al Tenco, oltre ai premi Tenco, oltre agli ospiti, no, nelle diverse serate, ci sono anche gli artisti che si sono aggiudicati la targa Tenco. Il giovedì 17 saranno sul palco dell'Ariston i cinque artisti che hanno vinto la targa Tenco quest'anno: Paolo Benvenu per il miglior album in assoluto con È inutile parlare d'amore, Setac con Assamanu per il miglior album in dialetto, Elisa Ridolfi con Curami l'anima per il miglior album opera prima, Simona Molinari con Hasta siempre Mercedes per il miglior album di interprete e Diodato con La mia terra per la targa Tenco, la miglior canzone singola. E in più ci sarà anche Alberto Zeppieri come produttore di Sarò Franco, canzoni inedite di Califano, che si è aggiudicato la targa miglior album a progetto. Andiamo ad ascoltarci alcuni brani anche degli artisti che saranno sul palco dell'Ariston giovedì 17 ottobre, tra cui appunto per il miglior album in assoluto questo bravissimo Paolo Benvenu dal suo ultimo disco. Ci andiamo ad ascoltare questo brano intitolato Marlene Dietrich. Marlene Dietrich, dovrei liberarti, come Helen Pisca dovrei liberarti, oppure abbandonarti, oppure allontanarti. Venere che guarda il cielo, divinando il cielo, interrogandosi, sei Giovanna d'Arco, potrei illuminarti, oppure liberarti, oppure vendicarti di me. Irriducibile da lunghi anni e dopo lunghi anni, tu sei terra fertile, irraggiungibile da lunghi anni e dopo lunghi anni. Lascia che io bruci per te, che io consumi per te, indelicata poesia dell'equo canone. Come Marlene Dietrich potrei liberarti oppure vendicarti, cosa puoi donarmi di te? si spezza il cuore come Greta Garbo curva sul telaio, penna e calamaio, la poesia è l'acciaio. Quindi chiamami per nome, lasciami morire come quando fuori piove, come Marlen Dietrich puoi dimenticare oppure rifiorire oppure vendicarti di me, di me. Lui è Paolo Benvignou, targa Tenco, miglior album per questo Tenco 2024. Andiamo ad ascoltarci un'altra artista, anche lei targa Tenco, e parliamo di Elisa Ridolfi in questo brano insieme a Tony Canto, Curami l'anima. Lasciami andare ancora in questo mare, mare di suoni, mare di fanfare. Se penso al giorno in cui ho provato a cantare, vedo un sole che esplode in fondo al cuore, ma non lo fa fermare. Musica che non mi fai parlare, che prendi il largo e fai volare, mi fai male, ma arrivi a consolare. Curami l'anima. Poi arriva una melodia, forse dei muri di casa mia, per riportarmi il cielo e con il cielo il mistero. Musica che non mi fai parlare, che prendi largo e fai volare, che a pensarci mi fai male, ma arrivi a consolare. E lei è Elisa Ridolfi, un'altra delle targhe Tenco di questo 2024. Sul palco dell'Ariston giovedì 17 ci saranno appunto anche Diodato, anche Setac, anche Simona Molinari e poi anche il trio composto da Michele Staino, Fabrizio Mocate e Gianni Coscia, oltre a Francesco Tricarico e ad Alberto Zeppieri, che ritirerà la targa Tenco a progetto. Tutte le serate all'Ariston presentate da Antonio Silva, storico presentatore del premio Tenco, e Francesco Centorame, una news. Ma ecco, poi il Tenco, ecco, non è solo le serate all'Ariston, ma è tantissime altre cose. Alle 12 ci sono gli incontri con gli artisti, le conferenze stampa nella sede del Club Tenco di Sanremo sul lungomare della città ligure. Alle 15 ci sono i pomeriggi con dei dibattiti in sede, presentazioni di libri o anche proiezioni di film, come quest'anno in omaggio a Sergio Staino, che purtroppo ultimo anteriore presidente del premio Tenco, insomma una persona che non ha bisogno di presentazione, a cui abbiamo dedicato una puntata speciale in suo onore alcuni mesi fa, che è stato anche in passato nostro ospite. Sergio Steno ci ha lasciato un anno fa e il venerdì 18 al pomeriggio al Cinema Ritz di Sanremo, nello stesso stabile del Teatro Ariston, ci sarà la proiezione di un film di Davide Riondino, Satire e Sogni, dedicato proprio a Sergio Steno, e la presentazione di una rivista libro curata da Sergio Secondiano Sacchi e pubblicata dal Club Tenco di Sanremo, intitolata Canta Steno, che è proprio dedicata appunto a Sergio Steno. Ci saranno presenti anche Adriano Sofri e Gianni Cuperlo per la presentazione. E poi tra i pomeriggi, mercoledì 16, c'è una tavola rotonda intitolata Resistenza, canto popolare, canzone d'autore, con Emanuele Felice, Daniele Fumagalli e Alessio Lega. Ci sarà la presentazione del libro Lo Straniero, un incontro intitolato Lo Straniero Ritrovato, con Michele Gazzice e Federico Siriani, che sono stati i nostri ospiti l'anno scorso a Zibaldone per presentare il loro disco con testi inediti di Michele Straniero, e quindi si parlerà dei cantacronache. Ci sarà poi un importante dibattito sulla canzone d'autore con Andrea Scanzi, Stefano Senardi e Paolo Talanca, e la maggior parte, tutti praticamente, dei premi di canzone d'autore esistenti in Italia, il De André, Musicultura, il Bindi, tanti altri, intitolato Primo incontro nazionale delle rassegne dei premi della musica di qualità, e poi anche un pomeriggio dedicato all'omaggio, un ricordo a Paolo Carudi, Buscadero, con Guido Giazzi e Andrea Parodi, e la presentazione anche di il nuovo libro di Paolo Talanca, Musica e parole, breve storia della canzone d'autore in Italia, e del disco 48 pubblicato dal Club Tenco di Sanremo e Cose di Amilcare con Way Scott, di cui tra poco ci ascolteremo un brano, curato da Sergio Secondiani Sacchi. Ma poi alle 18, insomma, per non farsi mancare nulla, alla Pigna, nella parte vecchia di Sanremo, nella ex chiesa di Santa Brigia, ci sono anche alcuni concerti, uno ogni sera da mercoledì 16 a sabato 19, quindi 4 concerti. Il primo, mercoledì 16, è un omaggio a Stefano Rosso, in cui canterà Andrea Tarquini. Sei malato di pazienza, sto e aspetto chi non torna più. È un ragazzino magro che cantava sempre insieme a me e morì un giorno che non so, e i suoi bei sogni mi lasciò. E Biancaneve è ancora là, è un po' invecchiata ma che fa, le mele non le mangia più, mangia i ragazzi giù del bar. Ricordo tanto tempo fa, veniva a scuola insieme a me, la guerra già non c'era più, e poi non c'eri neanche tu. E via così si incominciava il lunedì ad invidiare quello che aveva un libro da studiare. Diceva non ti serve a niente, la scuola non ti servirà. E invece io tra quella gente capivo un po' di verità. La marijuana ti fa male, il Chianti ammazza l'anemia. I miei compagni li ho lasciati, ho preferito andare via. Così ho comprato un giradischi, uno di quelli che non va, per non dar noia a quel vicino e non riesce a riposare. E ho conosciuto tante donne, cattive, oneste, senza età. A tutte ho dato un po' qualcosa, con tanta generosità. A lei, mia madre, i dispiaceri, mentre a mia moglie dei bambini. Al primo amore i sentimenti, i baci e l'acne giovanile. Via dalla scala è sempre là, e io dal letto 26. Io chiudo gli occhi e penso a te, ti sento invece non ci sei. E lui è Andrea Tarquini, la sua voce, una canzone di Stefano Rosso, Letto 26. Anche Andrea Tarquini sarà al premio Tenco nei pomeriggi alle 18, in questo caso di mercoledì 16 ottobre, alla Pigna, la chiesa, l'ex chiesa di Santa Brigida. Il giovedì 17 invece a Santa Brigida ci sarà sempre alle 18 Giovanni Bloch, un cantautore che abbiamo seguito spesso al Tenco. Andrea Tarquini è stato spesso nostro ospite. Il venerdì 18 invece ci sarà un concerto di Gianni Costa, Fabrizio Moccata e Michele Staino, dedicato a Sergio Staino, Bobo Songs. Bobo, come sapete, è il personaggio, uno dei principali personaggi che ha creato Sergio Staino nelle sue vignette, nei suoi fumetti. E sabato 19, l'ultimo concerto alla Pigna, sempre alle 18, sarà 48, 11 canzoni di Lucio 48, interpretato da Wayne Scott, accompagnato da Daniele Caldarini, Lorenzo Colace, Angia Piemage Persico e Michele Staino. Un disco prodotto, curato da Sergio Secondiano Sacchi e prodotto da Così Amilcare e il Club Tenco, in cui si mettono in musica, tradotte in inglese, delle canzoni del grande Lucio 48, a cui abbiamo dedicato un paio d'anni fa una puntata intera qui a Zibaldone. Vi facciamo sentire una canzone interpretata da Wayne Scott in inglese di Lucio 48, dei Unload the Black Wood, che è contenuta in questo disco, ma questa è la versione live che cantò qui a Barcellona un paio d'anni fa in un concerto a più voci, è proprio Wayne Scott, quindi una prima versione che poi rielaborata è entrata in questo disco. They owned the black wood from the Greek ship. Its name is Salvation, its name is Salvation. And when one of its men hangs in the balance, they cut off their arms to the elbow to throw them in search of the missing, to throw them like greyhounds in search of the missing. La la la la la. And the cook speaks from the bridge. I know who'll say, this is like hell, this is like hell. But he won't jump to the ground on this trip. And I'm not the one who says love just moves wheels of stars. And not even the ship that follows wheels of stars. Not even the ship that follows wheels of stars. La la la la la. E vabbè, ve la sentirete meglio in quel disco, sicuramente ne riparleremo qui a Zibaldone. Wayne Scott che canta Lucio 48. Siamo davvero ormai agli sgoccioli di questa puntata di Zibaldone. Parlare dell'edizione del Tenco è impossibile in solo un'ora, sono tantissime le cose, anche perché il mercoledì 16 si parte tra l'altro con una masterclass in genere dedicata alle scuole, vengono tantissimi studenti da diverse scuole superiori della Liguria. In quest'anno, dopo Iannacci o Gaber negli anni scorsi, è dedicata a Pino Daniele. Ci saranno Carmine Aimone, Tullio D'Episcopo e Fausta Vetere. Ma poi anche quella stessa sera del mercoledì 16 al Teatro Casinò di Sanremo, alle 21 ci sarà un concerto intitolato Cantautori al Festival, scritto e narrato da Sergio Secondiano Sacchi, con la voce di Siganda insieme all'Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta e arrangiata da Pino Iodice. E andiamo però a sentirci un brano degli anni d'oro di Pino Daniele. Io so pazzo, il live alla radio della Svizzera, Radio Televisione della Svizzera Italiana del 1983, in cui era accompagnato ovviamente anche da quel grandissimo artista che sarà premiato quest'anno al Tenco e sarà presente anche sull'Ariston la sera di giovedì. Stiamo parlando di Tullio De Piscopo. Su pazzi e voglio essere chi voglio uscito fuori da casa mia. Su pazzi c'ho il popolo che mi aspetta, scusate vado di fretta, non mi dare sempre ragione, io lo so che sono un errore, nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone, e lo Stato questa volta non mi deve condannare perché sono pazzo. Oggi voglio parlare. I soppazzi, i soppazzi, si sanno stare in battuta, metta tutto in faccia a muro. Ma chi dice che Masanillo poi dire non sia più bello, e non sono meno male, sono pure diplomato, e la faccia nera l'ho dipinta per essere notato. Masanillo è cresciuto, Masanillo è tornato. Anni meravigliosi per la musica, erano gli anni forse migliori di Pino Daniele, che comunque ha avuto una carriera eccezionale, e Pino Daniele sarà presente in qualche modo a 12 anni della scomparsa, ma 12 un po' meno, forse sto sbagliando, una decina d'anni della scomparsa, abbiate pazienza, anche al Tenco 2024 con questa masterclass. E Tullio De Piscopo, che sentivate alla batteria in questa registrazione alla Radio della Svizzera Italiana, Radio TV della Svizzera Italiana, che in quegli anni ha registrato, ha organizzato e registrato dei live spettacolari. Ce n'è anche un altro di Edoardo Bennato con cui abbiamo aperto la puntata di quest'oggi, visto che sarà premio Tenco 2024, che sono davvero da andarseli a cercare, ad ascoltarseli, goderseli. Li trovate spesso anche su YouTube, quindi potete anche goderveli insomma dal punto visivo e non solo auditivo. E noi chiudiamo qui questa puntata di Zibaldone dedicata al Tenco 2024, a Tenco 50, i 50 anni della rassegna della canzone d'autore italiana che si tiene a Sanremo. Abbiamo cercato di raccontarvi un po' cosa ci sarà. Sono tantissime le cose impossibili da riassumere tra mercoledì 16 ottobre e sabato 19 ottobre a Sanremo, tra il Teatro Ariston, la Pigna di Sanremo, la parte vecchia della città, la sede del Club Tenco e il Teatro del Casinò. E insomma, tanti gli artisti che passano. Se vi piace la canzone d'autore, magari fateci un pensiero ed avvicinatevi a Sanremo. Ci salutiamo con una canzone dedicata a Sergio Staino. Sergio Staino è presente anche lui in qualche maniera, un anno dalla scomparsa, al Tenco di cui è stato presidente negli ultimi anni, fino appunto alla sua scomparsa l'anno scorso. Sergio amava moltissimo la canzone d'autore. Una delle canzoni che forse più amava e più ha amato è Il vecchio e il bambino di Francesco Guccini, suo caro amico e un altro caro amico del Tenco fin dagli inizi, fin dagli anni 70, presente a quella prima rassegna del 1974 insieme a Vecchioni, Ivan Graziani e tanti altri. E Il vecchio e il bambino, proprio tra l'altro Sergio Staino l'ha trasformata anche in un fumetto che potete trovare addirittura anche online, quindi andatevelo a cercare. Qui ci andiamo a sentire una versione rimasterizzata di questa canzone di Guccini del 2007. Con questo brano ci salutiamo e vi diamo appuntamento alla settimana prossima per un'altra puntata di Zibaldone qui su Radio Contrabbanda, come sempre i venerdì dalle 17 alle 18. Tenco 2024 dal 16 al 19 ottobre a Sanremo, Tenco 50. Godetevi quest'ultimo brano e se avete occasione andate a Sanremo. Mi piacciono le fiabe, raccontane.